da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida bu e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me ti senti solo perché non sai come appari. Adesso, ma non so più cosa sento. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli. Viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele. Da tempo che cammino e sento sempre rumori dietro me. Poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. Adesso, ma non so più cosa sento. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli. Viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele. Potrei cantartele qui. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli. Viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele. Potrei cantartele qui.